Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Eccoci al primo argomento di questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ben trovato al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Torniamo a parlare di ZTL, ogni tanto è un tema che suscita dibattito, a partire in questo caso da una vicenda abbastanza clamorosa che coinvolge un disabile residente in provincia di Venezia. Cos'è successo? Certo, un disabile che, proprio come hai detto tu, risiede nella provincia di Venezia, che si è visto alla scadenza del permesso dei 4 anni andare dal comune per poter rinnovare il permesso, ma il comune, una volta adempito tutte le pratiche, non ha terminato di comunicargli quello che era l'iter, che cioè doveva essere quello di comunicarlo anche all'altro comune dove doveva transitare il rinnovo del transito. Conseguentemente a questo, il signore, benché ha aspettato qualche giorno per poter essere certo che il permesso venisse, diciamo, recepito dall'amministrazione, ha cominciato a recarsi al lavoro tranquillamente, fintando che ha cominciato dopo, nei giorni successivi, a ricevere un'infrazione dietro l'altro per un transito a cui non doveva accedere, e si tratta, come detto, della apparecchiatura ZTL. Il signore in questione ne ha ricevute 18 e nei prossimi giorni, da quello che sarà una stima così approssimativa che il comando dei vigili ha fatto, ne riceverà altrettante. La multa è di una novantina di euro all'una, giusto? Per questa infrazione? Normalmente quella notifica è di circa 94 euro, il signore è già arrivato a superare i 1600 euro e dovrà pagarne circa altrettante con le prossime. Lo scandalo è che il signore, appunto, essendo disabile, si è recato sul comune di residenza per rinnovare il permesso, ma il comune di residenza non gli ha detto che doveva comunicare anche il comune di Venezia, quindi per una vicenda in cui noi contestiamo anche il fatto che le amministrazioni non hanno dialogato tra di loro, e trovando paradossale che un disabile deve andare per gli uffici nel 2013 per poter dare una semplice autentica di quello che è un rinnovo che dovrebbe essere automatico, come avviene per esempio a Treviso e a Padova, si trova in una situazione dove praticamente ormai diventa pendente con il comune di Venezia per cifre di migliaia di euro. C'è speranza di poter opporsi per lui a queste multe, a queste cifre che continuano ad aumentare? Perché giorno, se lui ci va, penso andata e ritorno, sono 2 multe al giorno, no? Sì, infatti il periodo risale per circa i primi 20 giorni e ne dovrà ricevere il minimo, come detto, altrettante. Certamente gli uffici dell'Adico si sono messi subito a disposizione per cercare di risolvere questa cosa, innanzitutto rivolgendosi al prefetto, anche perché i termini di ricorso per potersi rivolgere al giudice in questo caso erano già superati, e ricordiamo che in questo senso sono 30 giorni per il giudice e 60 per il prefetto. Chiaro che, essendo vittima, a nostro avviso, di una burocrazia che è stata spietata nei confronti dell'ennesimo automobilista che utilizza l'auto per andare a lavoro e non per fare le gare, come tante volte si vuole far credere, in questo senso, a nostro avviso, ci sono tutti gli estremi per poter portare alla ribalta quella che è una vicenda che ha visto, appunto, come persona, come unica vittima, un cittadino che, appunto, non ha, a nostro avviso, nessuna colpa. Voi di ZTL vi eravate già occupati? Stiamo sempre parlando del comune di Venezia in questo caso, perché voi lì avete sede, quindi sono casi che trattate più frequentemente, ma parliamo di un varco diverso in questo caso. Beh, guarda, ti garantisco che di multe ormai ce ne trattiamo tranquillamente tutto il Veneto, ormai Treviso, Padova, Venezia non faranno neanche più differenza. L'anno scorso abbiamo vinto oltre 400 ricorsi contro queste apparecchiature, perché poi scopriamo che le ZTL sono apparecchiature molto discutibili, in quanto a volte, al di là di quello che è la sua funzione, creano anche molta confusione la cartellonistica che le accompagna, che continuano sempre a variare per effetto di periodi dell'anno rispetto ad altri, come magari le aprono, chiudono delle zone, come fossero delle semplici moda, pensiamo per esempio a Natale, tendono a liberare la circolazione, come dopo Natale, come dopo le vacanze di Natale, a di nuovo regolamentarla. Viceversa, poi la ZTL, ricordiamo, c'è il Velocard, c'è l'Autovelox e ci sono anche il Red Hawk, che è l'ultima apparecchiatura, il Velox, scusami, che è l'ultima apparecchiatura, cioè una colonnina alla quale gli automobilisti possono essere rilevati per la velocità con cui transitano, ma che obbliga comunque il vigile a doverci essere nella postazione e non più a notificare la multa come fino ad oggi hanno sempre fatto. Però questa vicenda ha voluto mettere in luce quella che è ormai un'usanza dei comuni di spremere i cittadini solo all'unico scopo di non fare prevenzione, ma solamente di fare cassa. Invece basterebbe, insomma, un po' di rigidità in meno nell'applicazione delle regole, sapendo poi tra l'altro che questa persona aveva già un permesso esistente, quindi semplicemente si trattava di un rinnovo, quindi fa ancora più rabbia se possibile. Guarda amico, i vigili per poter risolvere queste situazioni basterebbe solamente che i vigili fossero usati per fare i vigili e non per fare gli esattori del fisco. Le apparecchiature tecnologiche che oggi sono utilizzate solamente per fregare l'automobilista dovrebbero essere utilizzate per fare prevenzione. Pensiamo per esempio ai contasecondi e ai semafori che mette in condizione l'automobilista di calcolarsi i tempi per poter sgomberare o arrestarsi in prossimità di un incrocio a fronte di un semaforo che in qualsiasi momento può scattare arancione e rilevati e infrazionati. Poi ci sono apparecchiature che sono ancora più scandalose come il Velocard, che addirittura rilevano infrazioni e sottraggono punti all'automobilista solamente se supera la riga bianca anche di pochi centimetri con l'autovettura. Quindi siamo arrivati veramente a dei paradossi incredibili. Certamente dico che ormai il comune non gliene può fregare di meno a fare prevenzione, questo è il senso, perché comunque sappiamo benissimo che nessuno sostanzialmente corre velocemente nei centri urbani, ma questi autovelox vengono messi e posizionati a posto dove ci sono i transiti e percorrono le strade persone che vanno a lavorare, vanno a prestare cura, vanno a fare assistenza, oppure anche addirittura sono stati rilevati studenti che vanno a scuola e che transitavano in motorino. Perché anche lì magari anche il motorino, alcuni scooter superano tranquillamente 50 km all'ora e anche quelli vengono beccati chiaramente se la taratura è fatta a quel livello. Dunque attenzione a tutti questi apparecchi, ce ne sono di nuovi, ma magari di quelli specifici sul rilevamento della velocità torneremo ad occuparci in un'altra occasione. Intanto ringraziamo Carlo Garofolini, presidente dell'Adico, alla prossima. Grazie a te amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.